9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qui, sono le 9.10 dagli studi di Roma. Oscar Genuo torna a salutarvi e direttamente inizio a presentarvi gli ospiti di giornata. Ci occupiamo oggi di Milano, dei suoi problemi, insomma della polvere che si è un po' accumulata sulla sua efficienza di un tempo. Vi invito a chiamare all'800 24 00 24 e intanto il primo ospite è Marco Alfieri, giornalista del Sole, collega validissimo e che ha scritto questo bel libro che vi invito a leggere, Feltrinelli, titolo La peste di Milano. Buongiorno Alfieri. Buongiorno a voi. Un libro un po' cattivello, Alfieri, io leggo semplicemente qualche riga. Fa un po' impressione questa carrellata dei cosiddetti poteri forti cittadini. Ogni volta c'è un signorotto, la sua piazzaforte, le sue truppe. Ma non sembra la Milano del 700, del 600, quella spagnola, manzoniana, della peste? Ognuno sembra puntare alla costruzione di una sua personale signoria, privilegiando la dimensione privata o di clan. Con massimo comune denominatore dei grandi feudatari milanesi attuali, totale incapacità di fare sistema. Nessuno produce visione, sintesi alta. Al massimo si arriva a una presunzione di egemonia. E lei fa i nomi, entra nel merito dei... parla di banche, anche costruttori, imprenditori, e insomma dice a Milano è come se si fosse smarrita una capacità di tenersi insieme su grandi progetti, è un po' così? Ma direi di sì, cioè, per sintetizzare, diciamo, dal dopoguerra in poi ci sono stati tre grandi soggetti, no, che sfornavano classe dirigente a Milano: i partiti di ogni colore, intendiamoci, la Chiesa e poi, come si diceva, l'ufficio studi della Comit, della Banca Commerciale Italiana. Beh, quei centri oggi non ci sono più, non c'è più classe dirigente diffusa con una visione e quindi inevitabilmente vincono gli interessi di parte, pur legittimi, intendiamoci, e quindi la figura che io appunto cito nel libro, un po' manzoniana della peste, soprattutto questi feudatari che scorazzano abbastanza liberamente senza nessun diaframma e nessun filtro di regia pubblica che incanali gli interessi legittimi in un disegno collettivo, insomma. Questo è un po' il disegno che vedo a Milano oggi. Ma Milano, diciamo, ha rispetto a Torino, anche al nord-est, nei confronti della politica, ha sempre avuto la convinzione, talvolta anche un po' la presunzione, di dire abbiamo bisogno di dare meno classe dirigente alla politica nazionale. Noi ci occupiamo di lavorare, per così dire. Questo spiega un po' perché poi di grandi figure di riferimento lombarde e milanese alla politica nazionale effettivamente ne troviamo meno che di altre parti del nord. Poi abbiamo avuto grandi cicli, certo, milanesi o presunto milanesi, come quelli di Bettino Craxi. Ma insomma, la poliarchia milanese, la pluralità delle sue forze economiche di riferimento rispetto alla monocultura industriale di Torino, non era in definitiva poi sempre un punto di forza della città? Assolutamente sì, rispetto, diciamo, a quella che veniva definita la caserma Fiat, questa poliarchia anche virtuosa di poteri forti o di classi dirigenti diffuse che poi si equilibravano anche tra loro, no? C'era una pluralità di centri di potere, è sempre stata la forza di Milano, con una politica che era importante ma, come dire, non era decisiva come o ossessiva come è stata come a Roma, diciamo così, e quindi questo è sempre stato un punto di forza, una politica anche un po' laterale che nei suoi momenti migliori accompagnava i processi ma mai li chiudeva e li premeva sotto in una pentola come se fosse un coperchio. E però oggi queste cose qua non ci sono più, diciamo, anche la poliarchia si sta molto indebolendo, cioè ci sono sempre meno personaggi, sempre meno centri di potere, spesso che fanno cartello tra di loro, tra di loro, che decidono le sorti della città. È un po' come se fosse Milano, si è un po' provincializzata, come se stesse diventando un pochino una media città di provincia, dove un cartello, diciamo, di potere decide, intrecciandosi tra loro, decide le sorti della città e le grandi partite. Presento ai nostri ascoltatori un altro gradito ospite, Roberto Mazzotta. Buongiorno Mazzotta. Buongiorno a voi. Roberto Mazzotta, diciamo, protagonista della vita di Milano da sempre, per la parte che ha dedicato nella sua vita alla politica e all'azione civile nella Democrazia Cristiana anni fa, e poi perché fino a pochissimo tempo fa, a un paio di mesi fa, è stato presidente della Banca Popolare di Milano, una grande banca popolare, molto radicata, molto forte in una parte del paese che fa molto gola, e a dire la verità il presidente ha anche tentato, per così dire, più volte di farla crescere con sinergia, ma voi sapete come sono le banche popolari, i loro statuti, è molto difficile convincere i soci dipendenti in quel caso anche a dare ragione a chi le vuole fare crescere, quindi oggi, diciamo, da questa pluralità di punti di vista, Mazzotta, lei come la vede? È vero che Milano da qualche anno è in preda a un processo involutivo delle sue classi dirigenti? Ma Milano ha la la stessa malattia dell'Italia, ecco, e naturalmente l'avverte in maniera diversa e forse la si vede un po' di più. Ecco, io penso si possa sintetizzare in questo modo. In questo periodo, in questi anni, nell'ultimo decennio grosso modo, c'è certamente una solida oligarchia, non c'è establishment. Ecco, questa è un po' la differenza nei confronti di un passato che però è un passato che non ritorna. Alfieri indicava alcune cause di questo passato che non ritorna e che produceva classi dirigenti che avevano un'idea molto forte del loro interesse particolare, ma all'interno di un'idea di interesse generale. Ecco, oggi quello che manca alle classi dirigenti del momento, che quindi sono poco dirigenti e sono molto oligarchie, è questa idea di interesse generale, che però è un problema un po' diffuso. Noi lo avvertiamo un po' di più, anche perché Milano aveva la pretesa, si autodefiniva, ma veniva anche definita la capitale morale del paese, che non vuol dire il succo dell'etica, vuol dire la capitale che dava una guida di interesse generale al paese. Senta, ma da questo punto di vista, io non le chiedo, ci arriviamo dopo, al fatto, non le chiedo se il riferimento a questa capacità di indebolimento delle classi dirigenti in qualche maniera è anche figlia, espressione, un portato della Seconda Repubblica e del fatto che i partiti della Seconda Repubblica sono partiti, per modo di dire, tranne la Lega, che è diventato il partito più antico e storico dell'attuale contesto, il che la dice lunga, e lo dico senza ombra di critica. Ma al di là di questo, ci arriviamo dopo. Le voglio chiedere un'altra cosa: quanto questa cosa è figlia anche dello smarrimento, per esempio, della capacità di fare cultura, aggregazione di punti tradizionali della vita milanese alta, per esempio la curia, sto parlando del mondo cattolico organizzato intorno all'arcivescovado. Ma veda, Fieri diceva una cosa giusta che io ripeto perché è un punto importante per capire il passato e meno per progettare l'avvenire. Se sono venute meno un po' le fabbriche della classe dirigente, sempre classe dirigente intendiamo appunto persone che hanno una responsabilità all'interno di un'idea di interesse generale. Sono venuti meno i partiti politici, i sindacati, la vita articolata sul territorio della Chiesa, con la sua forza, con la sua capacità di attrazione, di formazione di giovani e di vicinanza al tessuto delle istituzioni e alla vita amministrativa e politica, con il senso di politica che è amministrare il bene pubblico. Questo è indubbiamente venuto meno, però oggi le cause vere, attuali, di questa debolezza, io le vedo in alcuni elementi. Primo, indubbiamente è finita la Milano manifatturiera, è finita la Milano delle aziende, le aziende che avevano gli imprenditori, gli investitori, gli operai, i sindacalisti, cioè erano dei luoghi nei quali si faceva comunità e si vivevano gli interessi generali e complessivi della comunità. Questo è venuto meno e Milano è diventata una grande città impiegatizia, di grandi luoghi di lavoro impiegatizio, che sono prevalentemente grandi banche o grandi gruppi che svolgono attività che hanno meno presidio sul territorio. Secondo elemento importantissimo, è in crisi il livello di governo delle istituzioni. Manca l'istituzione di area metropolitana che è in grado di amministrare il territorio vero di Milano di oggi, che non è la piccola Milano del comune di Milano, ma è l'area più vasta dei 100 comuni, che non ha un disegno politico di sviluppo né del territorio né dei servizi né delle infrastrutture. Terzo, c'è stato un cambiamento culturale, indubbiamente questa è l'epoca liquida del individualismo esasperato, degli weekend obbligatori e della gente che si fa i fatti suoi. Benissimo, quindi queste tre cose evidentemente rendono opaca la vita civile. C'è la possibilità di riprendersi, sì, però questo riguarda un discorso un po' più complicato. Certamente. Due ascoltatori, Margherita innanzitutto da Milano. Prego, Margherita. giornata. Ho ascoltato tutto quello che è stato detto e sono d'accordo in particolare sull'ultimo intervento, sull'analisi che ne ha fatto. Io sono una cittadina, vecchia cittadina di Milano e oggi della banlieue milanese, quindi la vedo da lungo tempo quella che è la situazione di Milano. Vero è che Milano ha sempre avuto, la Lombardia in generale, abbiamo sempre avuto il vezzo, lo dico in modo un po' ironico, di dire qui da noi si lavora, dalle altre parti si mangia e si consuma. Questa è una vecchia attitudine dei lombardi e dei milanesi, che aveva le sue ragioni naturalmente, che ha sempre più le sue ragioni, però che comunque a un certo punto deve anche trovare, ha lasciato questo atteggiamento, ha lasciato che a far politica fossero appunto i politicanti, ahimè, e non è un complimento quello che faccio. Hanno passato tutto il tempo a litigare nell'amministrazione di Milano. Adesso però io vedrei anche un altro elemento: da quando c'è stata la fusione, e lo dico da cittadino naturalmente, non da specialista, perché non lo sono, vedo un altro elemento: da quando c'è stata la fusione nel PDL tra ANA e Alleanza Nazionale, quindi e Forza Italia, secondo me le cose sono anche peggiorate. Abbiamo avuto a Roma l'elezione, che abbiamo tutti applaudito, di Alemanno, rappresentante emerito di Lega Nazionale. Ora, Alemanno vuol dire dietro le quinte, e neanche tanto dietro le quinte, vuol dire Fini. Il personaggio Fini è un personaggio che io ho sempre guardato con una punta di sospetto e molta ammirazione per la sua intelligenza. Mi sembra che in queste circostanze si stia pagando un tributo alla necessità che un Alemanno ha di dimostrare che fa bene, che a Roma risolleva le sorti, però questo si è fatto e con i capitali e il trasferimento di capitali su Roma e sulla politica romana proprio in particolare, e a discapito di Milano. Parlo soprattutto dell'Expo. Questi sono concetti che io esprimo, ma che sono comuni a molte persone. Sì. La devo interrompere, signora, ha fatto una carrellata di opinioni, le dirò, poi tratteremo il punto, che l'Expo mi pare un problema di ritardo, di litigi molto milanese, prima che, e lombardo, prima che per colpa di Alemanno, come pare, non c'entri molto. Un altro ascoltatore, Enzo. Buongiorno, sono il dottor Giannino. In effetti la penso esattamente come lei, perché io sono un tassista. Spesso sento parlare di macro, microeconomia in macchina da personaggi, tra l'altro, tra virgolette, influenti. Ma l'essenza del problema, secondo me, è che Milano si è incartata come quando si gioca a scala 40. La signora Moratti, francamente, non perché donna, sia ben chiaro, e non è all'altezza della situazione, per cui tutto si avvita su se stesso. Allora a un certo punto si finisce in un cul-de-sac senza risoluzione, senza, diciamo, possibilità di uscirne fuori, dice. Ecco, tutto lì. Dottor Mazzotta, mi permetto di dire che è vero, pensare ottimista va sempre bene, però bisogna analizzare in modo realistico e pragmatico quello che è l'attuale situazione di Milano. Grazie. Grazie, grazie Enzo. Ancora Sandro da Milano e poi torniamo con i nostri ospiti. Prego Sandro. Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei solo citare due cose pratiche di questa amministrazione. Cioè, io vedo che manca alla grande un senso estetico. Non è possibile che in una delle piazze principali della città, io uscendo di casa per prima cosa dal partone, che tra l'altro è protetto dalle belle arti, veda il mercato comunale stabile tutte le mattine con i vestitini da 5 euro, le camicette che mi sventolano sul naso. Proprio la prima cosa che esco è le camicette che mi sventolano. E ce n'è tanti in città di questi casi, sono esteticamente orribili, nulla da togliere al lavoro, quando non li mettono da lavorare da qualche altra parte. Altra cosa, non è ammissibile che di notte, praticamente tutte le notti, dalle 2 alle 3, io venga svegliato dai camion rumorosissimi della Tarsu che fanno la loro pulizia stradale. Tutte le notti mi puliscono la strada, ma me la pulisco io piuttosto che non mi sveglino. Io la devo queste fermare, sono cose lei pratiche stava che facendo mia... esatto, un esempio di cose pratiche che attribuisce al fatto che anche la proverbiale efficienza dell'amministrazione locale milanesi, insomma, è degradata. Avremo poi anche Podestà, il presidente della provincia di Milano, che ha appena vinto le elezioni, gli chiederemo direttamente. Alfieri, Questa settimana ci sono gli stati generali per Expo 2015. Il Corriere della Sera, diretto da Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Sole 24 Ore, ha lanciato un grande appello per rilanciare Milano. Tu stai iniziando a presentare il tuo libro con grande successo. La domanda è: a questo genere di denunce la cultura politica, amministrativa, il fermento culturale di Milano sono in grado di reagire con buona energia, oppure raccolgono il testimone e poi lo lasciano cadere perché in realtà poi si è persa la capacità culturale, ci diceva Mazzotta, di fare sistema? Ma io sono, nonostante l'età, sono abbastanza pessimista sulla capacità, diciamo, di questa classe dirigente di darsi un colpo d'ala e di affrontare i temi, anche temi, diciamo così, di estetica urbana o diciamo di minutaglia quotidiana, senza voler sminuire nulla di cui parlava il nostro ascoltatore. Citavi giustamente il manifesto, che è il manifesto della per Milano, che ha lanciato il Corriere della Sera, che è certamente una bella occasione per parlare in maniera concreta della città. Tuttavia finora, lo dico con abbastanza franchezza, cioè mi sembra un dibattito, come dire, un po' anestetizzato ed edulcorato, no? Che poi si lega anche appunto al lancio dei stati generali di cui dicevi prima. Perché? Perché manca, mi sembra, la dialettica, il confronto franco con chi la pensa diversamente, cioè mi sembra più, come dire, ad uso delle classi egemoni, una necessità di darsi, diciamo così, una narrazione. Però vedo poche voci nuove, vedo poche idee nuove. La stessa idea del sindaco Moratti di scrivere un manifesto di Milano alla Scala è proprio un'idea vecchia, senza nulla togliere alla Scala, perché oggi giustamente Mazzotta parlava di un'idea di Milano allargata, di una governance che manca su un territorio dei 100 comuni. Se noi torniamo ancora al miglio quadrato della Scala come 50 anni fa, credo che facciamo un brutto servizio a questa città. Mazzotta, non è un paradosso? Capisco che c'è la globalizzazione, che quindi le grandi banche devono guardare al mondo, e anzi è da fuori Italia che sono venuti forse i maggiori motivi, anzi senza forse i maggiori motivi di tensione nei 9 mesi alle nostre spalle. Però insomma, Milano col consolidamento bancario c'ha in realtà i quartier generali di Intesa, cioè i quartier generali di Unicredit. Un tempo c'era solo la vecchia Mediobanca, erano tutte banche pubbliche. Adesso Milano è senza dubbio il centro del potere finanziario, di quel che di più grande c'è in Italia. Generali, che è il maggiore asset finanziario dell'Italia sui mercati europei, in realtà si controlla molto più da Milano che da Trieste. Eppure c'è poco di Milano e di milanese in questi grandi gruppi, o no? Questo è assolutamente vero. C'è poco anche perché la città si è occupata poco di fare in modo che i processi di aggregazione, per esempio bancaria, non togliessero l'intelligenza finanziaria alla tradizione milanese. Quello che è successo alla Cariplo e alla Comit, a mio avviso, non è un fatto totalmente neutrale. Quindi vorrei dire, noi oggi paghiamo indubbiamente il prezzo di decisioni anche di riorganizzazione della cultura produttiva e della tradizione operativa milanese, che sono stati fatti non pensando troppo a queste cose. Oggi le paghiamo, e quindi io vorrei dire al gentile interlocutore che mi dava dell'ottimista, che io non sono ottimista, io detesto semplicemente fare il piagnisteo, e quindi cerco di capire come si farà a ricostruire il futuro, tenendo presente che se Milano non ha un futuro attivo non ce l'ha l'Italia. Bene. E questo però vorrei dire, bisogna che la gente capisca che noi oggi, quando si diceva ma la classe dirigente politica, e si facevano varie osservazioni legate ai fatti piccoli che sono sempre molto grandi e molto importanti, che noi oggi siamo al termine di un percorso devastante che si è inventato alcune realtà politiche che non hanno né storia né tradizione né cultura, soltanto per meccanismi di ingegneria politica, e dall'altra parte si è inventato un sistema elettorale in cui 3 o 4 signori fanno le liste e l'elettore non mette neanche il voto di preferenza, per cui poi non ci si può lamentare che il rappresentante politico non rappresenta nessuno. Io spero che queste cose vengano corrette, e per essere corrette bisogna che la gente capisca che sono stati dei guai. Ringrazio molto Roberto Mazzotta. Eccoci tornati qua in studio. Il tema di oggi, la peste di Milano. Ripeto, non vi preoccupate, non sta scoppiando una versione tutta locale dell'influenza suina che si sta di nuovo con l'estate tornando a diffondere nel mondo. No, è il titolo di questo bellissimo libro scritto da Marco Alfieri, un giovane bravissimo collega del Sole 24 Ore. Feltrinelli è l'editore e Alfieri conduce un'inchiesta trasversale in tutti gli ambiti della vita economica, politica, amministrativa, culturale della città, facendo un po' di amari raffronti tra la Milano che siamo abituati a considerare fino a un po' di anni fa come punto di riferimento, laboratorio avanzato, anche critico rispetto ai vizi privati e pubblici del nostro paese, una Milano che invece resta indietro in qualche maniera, lancia progetti ma poi non li realizza, perde più di un anno su Expo 2015, è ingolfata in aree immobiliari che gravano, prima hanno gravato sugli insuccessi di chi aveva messo insieme quelle aree per valorizzarle e non è stato all'altezza, adesso gravano sugli attivi delle banche che avevano prestato i soldi a un po' di imprenditori che volevano valorizzare quelle aree. Ecco, una città insomma che si scopre pesante, con un po' di colesterolo nel suo sistema cardiocircolatorio. Abbiamo con noi, per continuare a riflettere dopo Roberto Mazzotto su questi temi, Giulio Sapelli. Buongiorno Sapelli. Buongiorno a te, gli ascoltatori, buongiorno. Ecco, Sapelli insegna alla Statale di Milano, è presidente dell'Argis, cioè si occupa di governance dell'impresa sociale, diciamo è un osservatore economico con un taglio trasversale e le chiedo, Sapelli, in questo ritratto molto amaro della incapacità delle classi dirigenti anche nel mondo dell'economia, della banca milanese, lei vede una tendenza un po' figlia della cultura che viviamo? Ci diceva Mazzotta prima, viviamo in un mondo sempre più liquido, usava la formula di Zygmunt Bauman, oppure c'è una specificità milanese e Milano che davvero ha dei problemi suoi di caduta libera nella capacità di dare disegni di sviluppo alla città, all'Interland, alla stessa regione? La regione è guidata più da fuori Milano che da dentro, sembra oggi. Ma dunque si discute da tempo di questa cosa, diciamo che bisogna partire da delle cose un po' più semplici, delle fumisterie di Bauman, delle liquidità di Bauman. Il problema è vero che a Milano in questi ultimi 30 anni sono crollati i due capisaldi che facevano della città un laboratorio di innovazione, le grandi famiglie borghesi, non ce n'è rimasta più una, le grandi famiglie borghesi e la classe operaia. Beh, potrei obiettarle che il sindaco è espressione di una grande famiglia borghese. No, ma queste non sono le grandi famiglie borghesi che ho in mente io. I Moratti erano una media famiglia borghese, una media famiglia borghese che lavora nel trading, hanno una sola raffineria, però insomma non è che abbiano un impero, con tutto rispetto per i Moratti, che per carità, a me fa piacere che una signora che potrebbe passare la sua vita in vacanza faccia il sindaco, l'ho sempre trovato una cosa molto onorevole e molto bella, però la borghesia milanese nel senso alto, che non sono gli imprenditori, sono quelli che mentre hanno le fabbriche hanno le collezioni d'arte, che sono abbonati, anche se votano a destra, si abbonano a New York, ecco, quella gente lì è sparita. Ecco. C'è il ruolo poi devastante che ha avuto la Bocconi, cioè questa forma di economia spicciola, neoclassica, tutta fondata sul rendimento breve, lo short-termismo, una sorta di scuola di ragioneria per bambini che non riuscirebbero a fare delle università più intelligenti, e poi manca quella che è stata una classe dirigente, che manca come qui, come è stata a Torino, che erano gli operai, che erano questi operai specializzati, bravi, che avevano come mira l'azienda, sì, si occupavano anche di rivoluzioni, di sogni utopici, e è rimasta la classe media, questa gente dignitosa, i commercianti, gli artigiani, persone che mandano avanti, tirano la carretta, sono persone eroiche, ma che non riescono a esprimere una metafisica, che hanno trovato per nostra fortuna, ed è una gran fortuna, una rappresentanza politica nella Lega e un po' in Forza Italia, ma che però questa rappresentanza politica non gli dà una cultura. Capisce che pensare che con queste situazioni, mentre quello che era invece la sinistra, le pensi Milano, a sinistra c'erano persone come Silvio Leonardi, c'erano tutti gli amendoliani, cioè c'erano persone che avevano nel cuore, nel sangue un'idea di un'Italia produttivistica, questa gente è stata spazzata via dal 68, che si è insinuato anche nella sinistra. Io qui la interrompo perché a me pare che un po' larga parte di questo dibattito coincide con il fatto che poi l'aristocrazia culturale autodichiarata come tale, cioè quella della sinistra di Milano, da che entra in crisi, e sono lunghi anni, e porta poi alla conclusione: a Milano la cultura, la capacità di fare classe dirigente non c'è più. Però è una crisi figlia della crisi della sinistra al suo interno, a dire la verità. Abbiamo a telefono, ci ha chiamato Carlo Maria Giorgio Masseroli, assessore allo sviluppo del territorio del Comune di Milano. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Pronto, mi sentite? Prego Masseroli, sì. No, vi sento, io vi sono collegato, ho cercato di entrare in contatto con voi perché accetto tutte le analisi, accetto anche che il mio amico Marco Alfieri scriva un libro come quello che ha scritto. Però voi sapete, io ho 40 anni, mi candido a essere di questa nuova generazione che vuole fare classe dirigente, e la prima cosa che contesto al mio amico Alfieri e a queste grandi analisi, che possono in parte anche essere condivise, è che alla nostra età, bisogna iniziare a rimboccarsi le maniche e provare a dare una lettura della realtà, della nostra città in particolare, che sia un'opportunità per tutti, che porti un'opportunità per tutti, almeno per noi. Io sto scrivendo un piano della città, si chiama Milano per scelta, se avete voglia in un'altra occasione vengo a raccontarvelo, ma il grande tema è che si possa ancora scegliere Milano in un mondo, in una città in cui forse la borghesia è come dire, non è più quella di un tempo, in una città, come dice il nostro cardinale, che forse in parte ha perso l'anima. Beh, l'anima mettiamocela noi, caro Marco Alfieri. Non ho letto il tuo libro, non l'ho comprato, tu lo sai, siamo amici, aspetto che tu me lo regali perché non spendo neanche un euro per queste letture, diciamo così, che partono solo da un'ipotesi diciamo contestatoria, da un'ipotesi di lamentazione. Alla nostra età bisogna rimboccarsi le maniche e provarci. Io ci sto provando. Posso dirle una cosa, Masseroli? Posso dirle una cosa? Guardi, siccome conosco l'Alfieri da un po' di annetti, da quando era, per così dire, ancora aspirante giornalista, esiterei a identificare Alfieri come se fosse uno della sinistra antagonista che contesta solo. Invece quella lettura... Alfieri è un caro amico. Non è della sinistra antagonista. Il suo libro mi ha deluso perché racconta di una città tutta proiettata al passato. Sta raccontando di quello che era, mentre oggi, guardando quello che era, dobbiamo provare a dire quel che sarà e a costruirlo insieme. Alla nostra età non possiamo accontentarci di dire che le cose potevano andare meglio. Io ho 4 figli, non lo accetto. Va bene, Massaro. Io allora prendo in parola il suo impegno poi ad approfondire in una trasmissione ad hoc i problemi dello sviluppo urbanistico di Milano. Anche lì, ma è una critica eccessiva guardare troppo al passato, vedere tutti i problemi degli enormi aree rispetto alle quali non sono venute le risposte che i milanesi attendevano. Porta Vittoria, Porta Garibaldi, Porta Nuova, insomma, voglio dire, è un problema evidente quello. Io c'ho un esempio, sono di Torino. A Torino il piano regolatore dell'ultimo anno 90 è 10 anni, che ha orientato una ricostruzione vera della città su 3 spine, a Milano grandissimi progetti, moltissimi ritardi. Questo che dipenda solo dalla capacità di fare critica, piuttosto che invece da problemi evidenti nell'interazione tra proprietà delle aree, sviluppo e disegno della città, mi sembra che ci sia stato. Non lo attribuisco certo all'assessore Masseroli, però è un problema evidente nel vivere a Milano questa realtà. Sapelli, la crisi della classe dirigente autorappresentativa della sinistra, una crisi tutta interna però alla storia della sinistra, quanto pesa in questa immagine che abbiamo di una Milano appesantita su se stessa? Ma poco, secondo me, perché la sinistra a Milano nel senso classico non ha mai contato veramente per indicare una via. Diciamo che anche nella sinistra nazionale la sinistra milanese è sempre stata una minoranza e non è mai stata ascoltata. Il vero problema è che in una città che, per carità, non è una città periferica, Milano è un gateway molto importante, ha una moda importantissima, ha un sistema universitario, ha il Politecnico, che è una delle università più importanti del mondo, ha punte d'eccellenza, soprattutto nelle scienze naturali, dove io insegno alla statale anche qui a livello mondiale, e il problema vero è che manca la capacità di esprimere il potenziale che queste nuove potenziali classi dirigenti, che sono poi i piccoli e medi imprenditori, sono le partite IVA, sono i giovani studenti che devono andare in giro per il mondo a studiare qui, cioè manca praticamente, insomma parliamo chiaro, manca la politica. manca la politica, che a Milano però la politica che ha guidato è mai stata di sinistra, è sempre stato un riformismo cattolico-socialista. E questo riformismo cattolico-socialista oggi non si sostituisce, perché? Perché abbiamo, per il mondo cattolico mi pare evidente, no? Il mondo cattolico è profondamente spaccato in due, non riesce a coagulare, c'è comunione e liberazione da una parte, il cardinale dall'altra, sono due mondi che non si parlano, non riescono a fare una chimica positiva. E per quanto riguarda i partiti di governo, qui faticano a selezionare una classe politica all'altezza. Se questo assessore che ha parlato prima con toni un po', diciamo, un po' preoccupanti, perché bisogna leggere di tutto, insomma, ecco, sono in grado di superare, come diceva giustamente lei, questo gioco, perché a me pare che Milano adesso l'importante non sia più vincere, ma impedire a un altro di vincere. Beh, questo è un po' un problema che riguarda l'intero sistema politico italiano, a sì, dire la verità. È, capito, è paradossale che nella città che poi qui ci sarebbe un lungo discorso da fare tra Milano e la regione, perché Milano non ha mai contato nulla nel contado, la debolezza di Milano e che non è Venezia, che non è Torino che domina il Piemonte. Infatti, io l'ho detto, la regione la è molto più guidata da fuori Milano che da Milano. Ogni città fa per suo conto. Quindi parlare di Milano come parlassimo è una città anseatica, Milano senza il mare, capisci? Quindi deve tirar fuori dal suo interno queste forze. Io credo che ci siano. Bisogna creare dei catalizzatori. Finora invece vedo degli oligopoli che schiacciano giù la gente. E questo mi pare evidente. Alfieri, non è un paradosso che di tutto questo si parli mentre poi Berlusconi da 15 anni è il catalizzatore, lui, il magnete, l'acceleratore di particelle della politica italiana, tre elezioni vinte, due perse, ma tre vinte ogni volta deludendo coloro che pensavano che alla sconfitta precedente lui fosse atterrato. Quanto di Milano c'è in tutto questo? Molto poco. Ma infatti questo è un cortocircuito molto molto interessante, cioè leggere lo stato di salute e la febbre che ha Milano con il filtro e il prisma di Berlusconi, che nell'immaginario collettivo è l'imprenditore ambrosiano, o meglio brianzolo per eccellenza, anche se poi è nato all'Isola, cioè un quartiere storico milanese, e gli stessi episodi macrofatti citati prima, cioè dall'Expo al difficile decollo di Malpensa, che sono andati a maturazione proprio in questo anno di governo Berlusconi, appunto, e quindi il famoso schiaffo al nord è avvenuto mentre a Roma c'è il governo probabilmente più nordista della storia repubblicana, no? Quanto a biografie politiche, però se noi guardiamo bene la parabola di Berlusconi, prima imprenditore e poi politico, vediamo che il rapporto con Milano è sempre stato un rapporto molto strano, cioè è sempre più stato un rapporto di quasi di dominanza che di governo della città, no? Cioè Milano, a me ha colpito che Berlusconi su Milano non ha mai lasciato un centro studi, un segno della sua, un archivio, un segno della sua potenza imprenditoriale, e ha sempre avuto invece un rapporto più con Roma, cioè perché essendo un imprenditore legato alle concessioni è più un rapporto con il legislatore, quindi il suo rapporto, la sua ambrosianità la travasava più su Roma, e oggi non a caso ha conquistato tra virgolette i salotti milanesi passando da Roma, cioè da premier di questo paese. Eccoci tornati in studio. Io volevo un pochino anche rassicurare gli ascoltatori, perché vedo che da qualche messaggio mi si dice che c'è una conduzione un po' squilibrata, ma il problema è che noi avevamo appuntamento con Guido Podestà, che è il presidente della provincia di Milano, a cui avevamo affidato, insomma, la difesa di questa prospettiva in cui dal centrodestra si dice guardate che la classe dirigente siamo noi, le elezioni le vinciamo, eccetera eccetera. Non riusciamo a collegarci con lui, spero di riuscire a rimediare negli ultimi minuti. Intanto abbiamo Nicola da Milano, prego Nicola, ci dica. Buongiorno Giannini, senta, naturalmente io sono un immigrato a Milano, parlando di politicamente, visto che Milano ormai è diventata una città poco accogliente, ma sono un vecchio immigrato, di conseguenza mi sento milanese. E io condivido un po' di cose che sono state dette da Mazzotta, da Sapelli, e anche l'analisi di Alfieri, di cui purtroppo non ho ancora letto il libro. In ogni caso, da cittadino, per una città dei cittadini, e qualcuno dovrebbe andarsi a rileggere un po' di sociologia di 30 anni fa, di Roberto Guiducci. E Milano, in questi ultimi 30 anni e soprattutto in questa accelerazione degli ultimi tempi, non ha realizzato delle cose importantissime che erano già nei progetti di quel cristianesimo socialista di cui parlava anche Sapelli degli anni Ottanta. Innanzitutto Milano ha bisogno di una rete di mobilità che non è stata fatta e vediamo tutti i disagi che i cittadini hanno per muoversi nella piccola Milano e nella grande Milano. Seconda cosa, con tutte le aree dismesse che, su cui adesso si sta accelerando con progetti di urbanistica americanizzata, forse sarebbe stato più opportuno fare, come fanno in Inghilterra, studi di urban regeneration per vedere che cosa si poteva e si doveva costruire a Milano per far sì che Milano rimanesse, avesse una propria personalità, fosse una città con una sua personalità e che si potesse imporre a livello continentale. Grazie Nicola, lei dice mobilità e il recupero delle aree abbandonate, eppure proprio su alcune di queste aree Alfieri, penso Bicocca, penso Teatro Arcimboldi, sembrava di cogliere anni fa un segno promettente di capacità milanese di risolvere problemi con tecniche e modalità all'avanguardia nel paese. Poi lei invece descrive esattamente queste due vicende per esempio come delle mezze delusioni più che delle promesse mantenuta. Sì, diciamo che l'operazione di Bicocca, Pirelli Bicocca, appunto è stata un po', secondo appunto la mia lettura, un po' la madre della difficoltà di rifunzionalizzare la città, la nuova città del terzo millennio post-fordista, appunto sulla scala delle aree dismesse, cioè utilizzare queste aree dismesse industriali per dare una nuova funzionalità anche magari in chiave di mobilità alla città. Perché dico questo? Perché Bicocca in realtà sulla partita di Bicocca ha fatto premio, ripeto, i legittimi interessi di un grande gruppo come Pirelli, che allora era in difficoltà perché aveva appena perso la famosa scalata alla tedesca Continental e quindi aveva la necessità di valorizzare le proprie aree immobiliari dopo il ritiro della grande stabilimento, e quindi sulla rifunzionalizzazione della città ha fatto premio il format di speculazione immobiliare che è stato un po' fermo un secondo perché abbiamo un ascoltatore che preannuncia che vuole intervenire proprio su questo. Joseph da Milano, buongiorno. Prego. Sì, io volevo intervenire per dire che in questo momento, se avete citato due aree in cui gli anni passati è stato fatto un intervento, però proprio in questo momento Milano si sta trasformando, ci sono molte aree anche nel pieno centro della città, basti pensare alle Varesine, ma ce ne sono diverse altre che sono oggi in costruzione, per esempio la vecchia Fiera, appunto le Varesine e altre aree nel centro della città. Il problema secondo me è che mancano i milanesi a cui questo sta a cuore, cioè una volta c'erano i milanesi, oggi c'è un popolo milanese a cui questo non interessa più, cioè esiste un urban center a Milano dove periodicamente il comune fa vedere quello che succede, quello che sta avvenendo, però pare che alla stampa, pare che alle persone questo non interessi. Oggi è in atto la più grande modificazione di Milano dai tempi del dopoguerra, cioè, e di questo sta avvenendo senza che nessuno se ne accorga. Questa è una cosa che a me sinceramente come milanese, anche come architetto, mi fa specie. Mi piacerebbe che invece di parlare della peste di Milano si parlasse di come Milano sta attualmente cambiando. Io parlo dal punto di vista urbanistico, architettonico naturalmente. Ma guardi, io a dire la verità, io non sono molto d'accordo con lei, perché io faccio parte della minoranza dei giornalisti economici che su questioni come City Life, come Porta Vittoria, come le aree di Edes, di Zunino, insomma ce ne siamo occupati parecchio, sa, e a dire la verità la cosa più rilevante era come i debiti accesi per prenderle e per non infrastrutturarle pesassero sulle strutture dei proprietari pro tempore e poi delle banche che le hanno ereditate. Quindi questo io non per dire, non ne faccio colpa a nessuno, però l'informazione di questo ha provato ad occuparsene e anzi, se posso dire la verità fino in fondo, quando ha provato fino in fondo a fare il suo mestiere, le banche l'hanno fermata, sa? Quindi qui il problema non è che sono i milanesi che non vogliono, non c'è la gente a cui interessa, ci sono delle gravi questioni che stanno dietro quelle aree immobiliari, ma su questo mi taccio e passo la palla a Sapelli. Che dice? È un po' vera questa cosa che i milanesi non interessa più lo sviluppo della propria città? Ma no, ma questo non è affatto vero, perché facciamo anche il caso, questa comparazione sullo sviluppo urbano immobiliare tra Roma e Milano. Sicuramente il modello milanese è molto più virtuoso, pur con tutte le manchevolezze, le speculazioni, le cose, diciamo così, borderline a cui lei faceva riferimento nel rapporto tra grandi interessi immobiliari e stampa. Nonostante tutto ciò è un modello di sviluppo molto più virtuoso di quello romano, ad esempio, perché quello romano ha esploso delle nuove città, delle nuove town fuori da Roma, quindi questo sviluppo estensivo. Walter Toci ha scritto delle pagine straordinarie di critica a questo modello. In vent'anni hanno non utilizzato le aree dismesse romane, ma hanno creato una serie di città mostro dei dintorni di Roma, senza far pagare agli immobiliaristi le spese di urbanizzazione, quindi valorizzando non solo la rendita immobiliaristica ma anche la rendita fondiaria. Milano, dato che c'è ancora un po' di rispetto umano in questa città, c'è ancora un po' di bon ton nonostante tutto, una devastazione di questo tipo non l'hanno fatta, hanno cercato di valorizzare le aree che rimanevano vuote nella città. E quindi hanno impedito una valorizzazione, oltre che la vendita immobiliare, anche della vendita fondiaria, che qui non c'è stato, perché non hai potuto trasformare terreni agricoli in terreni immobiliari con un colpo di bacchetta, con delle varianti al piano regolatore. Quindi non bisogna buttar via il bambino con l'acqua sporca. Questa città, nonostante tutto, le critiche che ci si può fare, ha conservato ancora un certo rigore che gli viene dalle vecchie amministrazioni che sono andate dal secondo dopoguerra fino agli anni 70, fino a Tognoli, Tognoli Tercioli, e poi che questa, anche questa di cui si dice, si critica, ma cerca di fare quello che può in una situazione di blocco, di quel blocco istituzionale di cui parlavamo prima, anche insomma, che è molto meglio, voglio dire, se guardiamo, pensiamo a Firenze, che cosa è diventata Firenze, una città ingovernabile, invivibile, con una tranvia che non si sa se finisce o meno. Ecco, Milano per nostra fortuna non ha di queste certo, cose. Certo. Ha la sanità milanese, come quella lombarda, amici cari, è la migliore al mondo. Ah no, è quella di eccellenza, ripeto, anche secondo me al mondo. Quindi adesso questa cosa di... E lo dice uno che si considera un ospite, un po' perché è cittadino del mondo, un po' perché più invecchio, più ritorno torinese, però ma io non cambierei il mio livello di vita. Se devo vivere in una città, la città dove preferisco vivere è Milano. Comunque, insomma, la sintesi è esagerumanen, come si dice dalla nostra parte, a Torino. Sono d'accordo. Alfieri, senta, tanti temi non li abbiamo toccati, quelli della cultura. Io arrivo a una questione. La Lega considera Milano da che punto di vista? È una specie di terra troppo in attenzione che tanto vale lasciare agli altri, concentrandosi sulla fascia pedemontana, o in realtà anche a Milano la Lega alla fine sarà poi lo spezzone del centrodestra più capace di lasciare il segno? Attualmente non è così, nel senso che sia il comune che la regione, eccellenze forti, personalità forti come la Moratti e Formigone sono di tutt'altro segno. Ma lei che pensa per il futuro? Facendo questa indagine per il suo libro, cosa vede? Una Lega più forte anche a Milano? Ma secondo me nel medio termine sì, nel senso che la Lega per la sua morfologia elettorale si è sempre, tranne ovviamente il precedente post Tangentopoli, quindi proprio a macerie fumanti di Marco Formentini, si è sempre accontentata e diciamo accucciata nelle valli pedemontane, nelle città medie della provincia lombarda. Il tema vero è che è talmente cresciuto dal punto di vista elettorale, ha talmente diciamo leghistizzato culturalmente appunto la cultura e la narrazione del nord Italia, che non può non ripartire anche da Milano, e dico Milano in termini ovviamente di peso elettorale, pensiamo alle periferie, all'Interland milanese, dove la Lega comunque è cresciuta molto nelle ultime elezioni, ma anche Milano come centro del potere finanziario, e quindi pensiamo al tema cruciale della Fondazione Cariplo che andrà a scadenza nel 2013, su queste partite credo che la Lega vorrà metter becco. Penso anche alla partita sulla Fondazione Fiera, e cioè una Lega che è talmente forte che non può prescindere anche dai presidi economico-finanziari che contano. Grazie a Marco Alfieri e Giulio Sapelli. Io ripeto la mia delusione per non aver poi potuto collegarci con Guido Podestà, il presidente della provincia di Milano, che volevo ci spiegasse un pochino questo centrodestra che vince le elezioni, che futuro dà a Milano. lo faremo nella prossima puntata, quindi io vi do appuntamento domani. Vi ricordo il numero di telefono a cui chiamare, 800 24 0024, e l'indirizzo mail 9@radio24.it. Ringrazio in regia Paolo Corleoni e Carmelo Lauricella, i miei bracci destri di oggi Gloria Guerrera e Alessandro Marco Tulli. La linea al giornale radio, a domani. Yeah.